che è stato scritto nel giugno del 2009 ed ambientato in febbraio 2009, quindi eravamo in pieno anno feriano, e a un certo punto i personaggi del libro vanno a trovare uno zio, che è lo zio di tutti. Poi vi leggo la parte, vediamo se scopriamo chi è questo zio. Ah, Lasciamolo qua, mi vediamo viene se recuperiamo chi è. Comunque è lo zio di tutti. E quindi di politica comunque anche se non si vuole se ne parla, via, c'è inutile, anche quando compri un paio di scarpe. E qua. Voilà per il ciclone. Qua ti schieri, sei anche tracciabile, perché alla fine dipende da dove abiti, no? Ti sgama da subito se voti in un certo modo, in qualche paesino. Così. Quindi è una realtà molto Io vedo, particolare, no? parlo di me perché ovviamente è una persona che conosco meglio, però vedo che comunque, benché trascorsi 60 anni da quando siamo venuti qui, tutte le volte, tutte, che io ritorno da Verona e vedo scritto Salorno, mi viene un mezzo colpo. Vorrà dire qualche Ma cosa. quando torni in auto? Anche in No, treno. perché in auto è una gola, ci credo, cioè, benvenuti a Natale, mi sa che sta Ma gola, proprio l'idea anche di qui io. un invisibile confine che mi pone un marchetto addosso. Basta. Non riesco a liberarmi di questo. Per farlo, signora, le consiglio una lettura. Siamo in una. Ecco, ormai siamo entrati già Siamo nell'atmosfera. nell'onda, no? Sì, Siamo in. No, non nel diario. Anzi, non lo scrivo neppure, non ho tempo, quindi. No, no, no, andiamo a cose più seriose. Siamo comunque in una culla della. Una piccola ma grande culla della cultura, quindi parliamo di libri. E c'è un meraviglioso testo, edito dalla Foglio, quindi cioè, la Foglio Edizioni, una casa editrice locale. Che si chiama Alto Adige oltre i confini ed è scritto Ce dai, ecco, l'abbiamo. dai coniugi Ballish. E Sì. è un itinerario, lei racconta degli itinerari che lei può seguire anche a piedi, no? È a cavallo fra quello che è un excursus storico di questa terra e quelle che invece sono allegre scampagnate da fare anche con tutta la famiglia a qualsiasi età. È scritto molto bene, con serietà, c'è un approfondimento notevole rispetto ai temi trattati, e quindi il primo consiglio letterario che vi do questa sera è sicuramente Alto Adige oltre i confini, Ballish, che sono Sì, e la sposati, Righi, e sì, la, sua sì. moglie da Nubile, si dice Nubile, E ce l'abbiamo qui, l'abbiamo presentato nel maggio 2007. guardi, può aiutare per estraniarsi un attimino da questi ipotetici confini, no? Questa malattia del confine che abbiamo, basta. No, non basta, per carità, approfondiamolo. Sarebbe bastata, ma viene riproposta non da me, che sono nessuno, ma viene riproposta da chi non dovrebbe mai Certamente. osare di riproporre. Certamente, Cosa ha diciamo detto? che Ho parlato dello zio anch'io? è lo zio di tutti, la tiene sempre Non in c'era. Mi insomma. Bene, sono contenta che sia qui con noi Andrea Montali perché non ha neanche ancora 30 anni. Scusa, perdonami se svelo questi segreti, ma è una persona che ha, secondo me, fatto già un percorso molto ricco e molto significativo nella sua vita, che è difficile ritrovare in alcuni suoi coetanei. Mi Scusate se devo, mi piace. dà un tono. Sì, mi piace come scrive, quello che scrive. Già qualche anno fa avevamo fatto una prima presentazione di un altro libro che era Anime Sole in Autobus Sovraffollati al Teatro Cristallo. E in quell'occasione c'era anche un accompagnamento musicale perché Andrea è anche un musicista, forse in questo periodo non ha più tanto tempo per suonare, però insomma. Conosce benissimo la musica, anche la realtà locale da questo punto di vista, e forse anche con la musica è riuscito a superare certi confini e certe difficoltà, forse che ci vengono anche imposte inconsapevolmente. Questo libro l'ho letto, dicevo prima, lui in una domenica. Raramente ho le domeniche tranquille a casa perché il ménage è quello che è da noi. Però ecco, l'ho letto tutto d'un fiato, insomma, quindi è un libro che si legge molto volentieri e velocemente. Ha vari passaggi di canone nella narrazione, molto brioso, e mi ha colpito di questa sua opera il fatto che un ragazzo così giovane, per esempio, faccia delle citazioni e mostri anche una conoscenza profonda di un poeta come Caser, oppure di un pensatore, almeno come lo concepisco come pensatore, quale Alexander Langer. Ecco, quindi dà un'immagine di quella che può essere la consapevolezza dei ragazzi di oggi di quella che è la nostra realtà locale, che forse è ancora possibile reinventare, se si vuole, in una prospettiva anche diversa, con delle speranze che non dobbiamo mai negarci, e anche degli ideali. Ecco, è possibile avere delle idee, è possibile avere dei meccanismi che ti scatenino la voglia di fare e di cambiare. Spesso magari noi ci crogioliamo così, seguendo degli archetipi, e ci troviamo appunto imbrigliati, diceva anche prima la signora, no? Che a volte rientro a casa, sì, si è contenti di tornare a casa, ma c'è un po' un senso di tornare a tutte queste abitudini, a certi schemi, che tutto sommato possiamo anche trovare un modo per superare. Però ecco, adesso io non vorrei andare avanti troppo, intanto volevo chiedere ad Andrea come gli è venuto in mente di scrivere, appunto, ho letto il tuo diario, se ci racconti un attimo un po' la trama, ma non troppo, visto che dobbiamo invogliare anche i lettori a leggere, a prendere questo libro, e in che periodo è ambientato, perché questo è ha un suo significato, insomma, no? Mi dicevi prima. Innanzitutto buonasera a tutti, prima non ho salutato, un po'... Scusate, sono stato un po' caffone. No. Ringrazio tutti quanti che siete venuti qua. Ringrazio lo staff, tutto il personale della biblioteca per avermi offerto questo spazio. Detto questo, che è doveroso, partiamo dal libro, ho letto il tuo diario. Da dove nasce? Era appunto 2009, è stato scritto, come prima ho anticipato, nell'estate 2009, ero a casa, in quanto io mi occupo di bambini, io faccio l'assistente all'infanzia. In quel periodo, fra l'altro, avevo lavoro, non avevo troppo lavoro, dipendevo un po', insomma, ero nell'oblio del precariato, cosa che non mi ha mai colpito più di tanto, no? Per tornare magari all'attualità, cosa che anzi l'ho ritenuta una risorsa, devo essere onesto, perché mi ha permesso di fare un sacco di esperienze lavorative. Però questa è una cosa evidentemente che ha altri risvolti, poi magari approfondiamo, ognuno dica la sua. Vabbè, capita che arrivo a casa, fortunatamente avevo una malattia comunque in quel periodo, casualmente avevo un contratto, no? Vai, mi spacco una gamba giocando a pallone, 2 settimane a casa, no? In questo mio bilocale Laivesotto, ai tempi abitavo a Laives, alle porte del capoluogo altoatesino, con un'ex fidanzata, una delle tante. Sono single per contratto. A tempo determinato. Pure quello. E, avevo tantissime storie. Ne avevo veramente parecchie. Avevo un tomo di storie. Però mai non avevo tanta voglia di mettermi là a scrivere un libro, perché non è proprio divertentissimo scrivere un libro, in tutta onestà. Però avevo il tempo, ho detto, beh, quasi quasi, vediamo se mi appassiona ancora. Io avevo esordito giovane, avevo 23 anni e mi ricordo che spedii una email con un racconto e un folle che gravita fra l'altro in questa zona anche per questioni di lavoro, che si chiama Rainer Christian, ricevette questa email, l'unica che mandava un editore, non ho due neanche, mi rispose dicendo che voleva pubblicare il libro, che però non esisteva perché avevo scritto 2 racconti. Allora in 10 giorni li ho scritti tutti quanti e li ho cominciato. Questo libro invece nascevo da un'altra esigenza, innanzitutto coprire questo tempo. E poi dall'altro perché erano tante le riflessioni, non solo mie, ma anche dei miei amici e conoscenti, riguardanti quelle che erano determinate dinamiche della realtà altoatesina, che in quel periodo erano piuttosto intensificate dai media, in quanto era l'anno hofferiano, no? Io avevo mantenuto 3 o 4 giorni di rassegna stampa di febbraio il libro, ripeto, l'ho scritto a giugno. Ho mantenuto questi 3 giorni perché la storia la volevo ambientare lì, quando mai avrei avuto il tempo di scriverla. Quindi la storia è stata ambientata in quei giorni di febbraio e narra le vicende di un gruppo di ragazzi, più o meno miei coetanei, quindi andavano dai 25 ai 30 anni, che vivono fra Bolzano, Innsbruck e Berlino e sono continuamente presi di mira da 2 giullari che si chiamano Centocolpi e Spazzola. Questi 2 giullari gliene fanno di tutti i colori e portano questi personaggi a vivere delle vicende a cavallo fra sogno e realtà, shakespearianamente, oppure fra le fiabe e la vita. In quel periodo stavo leggendo le fiabe italiane di Italo Calvino e quindi la cosa è arrivata da sé. Tant'è che il libro ha 3 io narranti perché erano tanti in quei momenti, i miei riferimenti letterari. Non avevo deciso che mi sarei messo a scrivere, di solito quando decido di mettermi a scrivere non leggo perché mi diventa abbastanza complicato, sono in una storia, in un'altra, cioè. In quel momento leggevo tanto, fra le varie letture, anche perché avevo molto tempo, fra le varie letture c'era Italo Calvino che sicuramente mi aveva influenzato al periodo. Consiglio, vabbè, Le lezioni americane, che sono un classicone, rieditato recentemente da Einaudi. Poi stavo leggendo, e quindi questo, Un io narrante, ambientato tutto a Berlino, è una fiaba. È una fiaba di questa ragazza che parte da Bolzano con un pelatore di mele. Questa ragazza abitava a San Giacomo, la protagonista, una delle protagoniste. Aveva questa visione sulla campagna, c'era questo ragazzo cieco, scusate, mi sto confondendo con qualcosa. Era un ragazzo del sud, un ragazzo che viene dal sud, era venuto qua a tirarsi un po' di soldi. Vanno insieme a vedersi la finale dei mondiali 2006, quando l'Italia vinse il campionato del mondo. A casa della ragazza nasce la storia, nasce l'inciuccio, partono e vanno insieme a Berlino, che per i giovani d'oggi è un po' la capitale del disastro, cioè, perché tanto sai che vai lì in qualche modo te la cavi, la vita costa poco, cioè, tanto via vai, è una cosa divertente. Decidono di partire, quindi 2 dei personaggi ce li siamo già giocati, vanno a Berlino. È buona parte del libro ambientato proprio lì, perché comunque il mio miglior amico, che è un grandissimo musicista, Stefano Manca, appena tornato dagli Stati Uniti, gira con la sua rock, una band abbastanza di livello, è stato a Berlino parecchio, questo mi ha permesso ovviamente di conoscerla, andavo a trovarlo così, poi non è che mi ricordassi molto, poi tutte le cose di Berlino che ho scritto le ho ricostruite con Google Art e su Skype con lui a chiedergli, oh ma era così quel posto lì, sì, perché sinceramente la città era vasta. Mi è piaciuto quando a un certo punto dici che questa ragazza gira guardando, cercando di vedere se sul metropolitana riesce a individuare qualcuno scampato dallo zoo di Berlino, citando quel film, quel libro di Christiane F. che almeno quelli della mia generazione avevano letto, e poi c'era stato anche il film al cinema, se non mi ricordo, no? Noi ragazzi dello zoo di Berlino, questa storia di droga, di sbandamento. Di Alexanderplatz, aveva a che fare con Alexanderplatz? No, era la storia dove c'era questa protagonista, che poi in realtà penso che sia anche abbastanza autobiografico, no? Di Christiane F., non c'era il cognome per iscrivere. No. Sì. Ma parliamo di... Sì, appunto, quello, 30 anni fa. Sì, quello è un libro che due giornalisti dello Spiegel ai tempi presero questa ragazza, sì. Che era diventata famosa, era andata già un attimo all'onore delle cronache, in quanto la sua migliore amica è stata la tossicodipendente più giovane a morire di overdose nella storia d'Europa, a 13 anni, dal cosiddetto, insomma, storie tristissime, però diciamo che nell'entroterra culturale di questi ragazzi c'è anche questo libro, soprattutto perché la trasposizione cinematografica vedeva la partecipazione alla colonna sonora di David Bowie, sì, è vero. Che per il periodo era... Diciamo che era e tuttora è colui che non va mai fuori moda, ecco. È quello che non è che cavalchi le mode, le creano. Quindi questo ha creato, diciamo, un immaginario collettivo generazionale, ovviamente in quel senso lì abbastanza fuorviante, deviato e drammatico. E una delle ragazze nel suo immaginario, in quello che è la forza delle sue conoscenze, c'è anche questo libro. Io un po' meno, perché arrivando dopo. però diciamo che è anche un po' un master generazionale, insomma, avessi 14-15 anni, ragazzi, tutto venire a te lo leggi. Poi tra l'altro è scritto molto bene, ha scritto da due giornalisti, ha delle traduzioni meravigliose. È interessante, è una realtà che non esiste più, ma oddio, se vai a Berlino ci sono delle cose anche peggiori, perché là c'è un welfare state talmente pesante, cioè talmente facile, semplice, cioè, lì la gente può vivere senza fare niente, che molti si perdono. Cioè diciamo che la realtà berlinese non è propriamente rose e fiori. Una parte del libro comunque è ambientata proprio lì, una parte invece è ambientata ad Innsbruck, non a caso. E in quanto credo che per certe cose, lo ripeto sempre, ci sono alcune cose che, essendo comunque una capitale del Tirolo, credo che sia soprattutto a livello universitario, e come si concepisce l'università, e lì sia più avanti rispetto a noi, chiaramente, cioè nessuna, una realtà piccola, tant'è che non a caso quando decidemmo di presentare questo libro, presentammo all'università di Bolzano, perché si cercava un attimo di entrare in quelle mura e che queste mura uscissero, lo dico sempre, lo ripeto. E quindi Innsbruck è stato uno dei luoghi, e poi molto ambientato a Bolzano, ambientato nelle, magari nelle tangenti, propriamente anche quasi, nelle tangenziali di Bolzano, la zona industriale non c'è propriamente una tangenziale, una mulattiera, forse adesso la raddoppiano, avremo due mulattiere, però sai che basta che piova e non ti muovi più, era meglio le mulattiere. Vabbè. Aspetta che venga giù un calcinaccio. No, vabbè, ma adesso non stiamo a criticare la nostra città, che poi è bella, ci sono un sacco di cose buone. Tant'è che nel libro viene fuori, cioè io adesso non sono qua a far critica, ad esempio, se io sono qua, anche grazie al contesto in cui vivo, voglio dire, altrimenti, cioè, insomma, una ricchezza così, un polo bibliotecario così, ha fatto dare lavoro a tante persone, ma poi dà anche la possibilità a tante persone di venire e avere una ricchezza incredibile. Qua. Questi servizi sono il fiore all'occhiello di Bolzano. Diciamocelo. In Italia o in altri luoghi, dico quello che l'unico settore in cui ho notato un miglioramento, è veramente grande e considero un servizio eccellente, anzi sono due, i servizi bibliotecari e i servizi psicologici di aiuto a ragazzini, sì, questi due sono due fiori all'occhiello. Certamente, e questo poi ricade anche sulla quotidianità, insomma, di tutti quanti. Io credo che questa cosa anche i personaggi del libro la vivano, la sentano, infatti nonostante magari vivano in condizioni non propriamente fantastiche, uno dei ragazzi non lavora neppure, fa lo spacciatore ad esempio, un altro dei ragazzi fa il suonatore di strada e quindi gira l'Europa suonando una chitarra, cioè sono persone un attimo ai margini, però vivendo in questo contesto, anche lo vedi mentre leggi il libro, hanno moltissime competenze, moltissime conoscenze a livello culturale, a livello legato strettamente alla musica, alla letteratura, perché sono le cose che prediligo, erano le cose che mi veniva anche più facile mettere in bocca ai personaggi. Cioè, ci sono un sacco di trucchi nella narrazione, fra i quali ci sono anche questi, ogni tanto ci butti dentro un po' di tuo, no? E le cose di mio che ci mettevo erano queste. Sicuramente avere un po' di bibliotecari come questi, un'educazione permanente come qua, presentazioni di scrittori a valanga. Mi chiesero una volta in una presentazione come essere uno scrittore qua, fantastico, da ogni settimana vado a vedermi uno scrittore, cioè, mi è venuto Giorgio Vasta, fra l'altro un altro consiglio letterario, non perdiamo quest'ora, dai, almeno vi do qualcosa, e Paolo Ruffilli, preparativi per la partenza, lo portammo a Sharada Circus una volta, era un'associazione culturale, adesso è solo un bar, si chiama Downtown, e infatti è andato un po' in basso, però una volta. Downtown significa centro città, però diciamo che è un gioco di parole anglofono, puoi anche dire sei proprio finito in basso. Vabbè, comunque portiamo Paolo Ruffilli, e ad esempio questo è uno scrittore meraviglioso, e qui se uno ha un attimo di passione per quella che è raccontare storie, che sia parlare, che sia scriverle così, qui c'è un maestro. Infatti ha vinto una svagonata di premi. Comunque, tornando al libro, ho letto il tuo diario, nasce da lì e sono felice che sia così, anche perché questi personaggi poi mi hanno portato per queste strade, vi dicevo prima, ma anche per ricostruire Bolzano, sinceramente molto spesso ho usato Google o amici, chiamavo, ma scusa, ma com'è quel posto, perché non me lo ricordo più, addirittura una parte del libro è una festa incredibile, succede una festa, e c'era in quel periodo sui giornali che avevo mantenuto questi 4 giorni, perché sinceramente io collaboro, sono pubblicista e collaboro anche con il quotidiano locale del gruppo L'Espresso Alto Adige, Però devo essere onesto, non è che io legga spesso i giornali, anche perché cioè, la mole di informazioni che abbiamo per tornare a un luogo comune, però non così tanto, che si hanno tutti i giorni, ti portano, io mi leggo gli approfondimenti, mi leggo gli editoriali, mi leggo magari l'articolo perché so che quel giornalista è particolarmente dotato, ma perché per imparare anche, no? Cioè, perché per me è scuola, no? Ogni giorno. Però magari evito, no? Allora, questi quattro giornali, una cosa che c'era in quei giorni di febbraio era l'Areale, no? L'Areale, no? Che adesso è venuto fuori che hanno fatto questo grande concorso, sì. E lo rifanno tutto, c'è una zona fantastica, chissà dove mandano le ragazze di strada adesso. Il ferroviario. Sì, sì, sì, sì, si spostano alla stazione. So, succederanno un po' di cose, dicono. E quindi allora una delle cose, e lì nasce una festa, e per evitare tutti i problemi gli danno fuoco, a un certo punto ce l'hanno questa reale, per sbaglio, però insomma, lo incendiano. E credo che fosse una soluzione perseguibile, non so, alla fine dai fuoco, così non ci pensi più. Però nella storia non è nato propriamente così, nella storia c'è questa grande festone. E quindi diciamo che è un romanzo polifonico, come ho già anticipato. Questo significa che è un romanzo che non ha un solo io narrante, ma ne ha di più. E questo mi ha divertito tantissimo a farlo, non è stato così impegnativo, mi ha anche permesso poi di sviluppare tutte le storie e trovare gli intrecci, no? Questo è il piacere poi della scrittura e anche della lettura, credo, perché poi non so chi stia citando adesso, ma cito qualcuno perché l'ho letto da qualche parte e non arrivo a queste massime di sintetizzazione, però una volta che un libro esce non è più di chi lo scrive, ma di chi lo legge. Non so chi l'abbia detto, però è una frase sensazionale e poi fa effetto. E è, secondo me è giusta. E quando questo libro, prima che uscisse, l'avevo fatto leggere a molti miei amici che magari erano di stanza a Berlino o a Innsbruck o vivevano qua, metti che ho mandato 10-15 fotocopie così in giro, erano rimasti tutti gasatissimi, te dicevano, beh cavoli, qua hai scritto qualcosa che ci rappresenta. C'era qualcuno che si riconosceva anche, non solo si sentiva rappresentato, vero? Sì, uno dei protagonisti è un capotreno. È un capotreno, le ferrovie dello Stato si può dire di tutto, però una cosa affascinante è che sai che quando entri può succederti anche di tutto. Quindi è piacevole, cioè del tipo oggi non so cosa fare. Sono... È bellissimo, effettivamente. Da sono annoiato, cosa faccio? Lui diventa ostaggio, uno dei protagonisti, gira con la sua chitarra e diventa ostaggio di un controllore pazzo, impazzito. Questo è un controllore che si presenta come un normalissimo agente in servizio, no? Arriva, gli chiede il biglietto, no? Questo ragazzo è senza biglietto, essendo uno spiantato, non c'è neanche i soldi per il biglietto, va un po' alla portoghese. Trova questo capotreno e fa, guardi, io non ho il biglietto. Lo segue in uno scompartimento e da lì succederà di tutto, in quanto il capotreno si rivelerà una persona coltissima, che cita a memoria Norbert Kaiser e Alexander Lange. Poi magari se volete torniamo un attimo anche su queste due figure della nostra cultura, dico nostra in senso ampio. E quindi lo cito a memoria. E soprattutto con divertimento, lui che non è di qua, non è autoctono, non è neanche alto tesino d'adozione, come numerose volte si autodefinisce uno dei personaggi, gli dà un quadro abbastanza evidente di tutto, le possibilità che una persona può avere. Sì, sono parecchie le possibilità di un giovane. Sì, sono tantissime, basta saperle cogliere. E basta essere, io credo che molto spesso uno dei difetti, credo, ma io parlo come sempre, non sono studioso, appunto ribadisco, io mi occupo di bambini, la maggior parte del mio tempo io la passo con persone che non parlano, hanno altri tipi di comunicazione, cioè ti parlano in un altro modo, al che magari approfondire determinate tematiche non diventa troppo semplice, anche perché quando poi torni a casa preferisci magari parlare di un film, no? Vabbè, comunque una cosa che ho avvertito rispetto a quello che è il mondo che mi circonda, poi ho la fortuna appunto di avere molti contatti anche con il giornale, quindi parlo spessissimo con scrittori, artisti. Una delle cose evidenti, credo, delle persone della mia età è che hanno delle aspettative che superano di gran lunga le proprie, non possibilità, ma proprio competenze. Cioè, a volte persone si adagiano, magari dicono, vabbè, cazzo, sono laureato, no, e non trovo lavoro, ma guarda che schifo, guarda, il precariato, mi sono laureato, cazzo, ho studiato scienza della comunicazione, dove vuoi andare? Cioè, pensaci prima, cioè, hai fatto spendere un sacco di soldi ai tuoi genitori, anzi, sentiti in colpa. Cioè, ecco. Sì, bisogna trovare dei sogni, no? E cercare di realizzarli, perché anche partire con l'idea di pianificare, pianifico il futuro, però faccio una cosa che non mi piace, forse anche quello non è molto motivante. Sì, diciamo, però così. Cioè, io adesso vedo anche in Italia c'è stata una grandissima sommossa popolare perché hanno cambiato, stanno cambiando l'università e tutto quanto, no? Tutti in giro con questi libri, ok, cosa avete dei soldi? Cioè, una, quando meglio la Gelmini e il suo entourage, che almeno ti dà una traccia. Io non sono di quella linea politica, però meglio loro che uno che fa un cazzo una sera e poi si lamenta, cioè. E quindi io penso che molte della mia generazione siano così. Nel libro questo è evidente, poi che molte persone si rivedano, diciamo che passa anche il messaggio che a volte è anche molto facile, no? Cioè, c'è un po' una discrepanza, perché fare un lavoro che è sognato non è più realizzabile, no? Non è vero, questo non è vero, secondo me c'è per i più invece. Cioè, ti devi inventare, lo devi pescare, lo devi saper trovare col lavoro, ma non è che puoi partire con uno schema, ma allora dunque io faccio... No, però cavoli, secondo me invece sì, cioè, secondo me è il contrario, sì. Ci sono molte più possibilità ora, cioè del tipo, io mi metto nei panni, io vengo da una famiglia molto numerosa e sono l'ultimo di 5 figli, questo mi ha permesso di vedere tantissime generazioni, già a caso, cioè, mi svegliavo. Tantissima gente, cioè questo qua, tantissima gente di età differente. Allora penso, quelle che erano le possibilità di mio padre sotto le mie. Cioè, mio padre è partito da possibilità decisamente inferiori alle mie. Io non siccome sono tanto del suo avviso, cioè io sono molto più anziana di suo papà. 70 anni a mio padre. Siamo quella fascia grosso modo. Però quando mi sono laureata io, era il momento in cui si aprivano tantissime porte, e anche i compagni miei che si sono fermati al diploma, tutti, assolutamente tutti, hanno trovato lavoro subito, e chi da viva essere stanziale è stato un po' stanziale e ha potuto con questo farsi un'esistenza, diciamo, regolare, potendola pianificare, quindi il famoso mutuo per la parente, eccetera, tutte queste cose. Uno dei personaggi del libro, uno dei suoi sogni è quello di fare un colpaccio vendendo tantissima sostanza stupefacente per aprire un mutuo. Che è una cosa anche bellissima, cioè del tipo, che bello, cioè, il tuo sogno è aprire un mutuo, no? Andare a vivere con la tua ragazza, aprire un mutuo. Ma è così bello aprire un mutuo e pagare un tasso al 5% se lo prendi fisso, variabile. Però se le piace, voglio dire, quando ero giovane io era possibile fare una programmazione della propria vita in una strada scontata, ovvia, borghese, per carità, déjà vu, però era possibile. Oggi io penso che non sia possibile questo. Beh, invece secondo me sì, bisogna fare dei sacrifici, cioè perché mio padre e mia madre venivano nessuno dei due da famiglie abbienti, loro sì che avevano fatto il mutuo, grazie a loro io ho avuto la possibilità di studiare, di così, non così molti di quelli, io vengo da, i miei sono altoatesini d'adozione, mia madre è di Parma e mio padre è ligure, persone modestissime a livello lavorativo, per quella che era così, e però loro hanno fatto dei sacrifici. Allora se io giro fra anche le mie colleghe giovani e tutti hanno l'automobile, no? Cioè, allora cioè, uno deve fare delle scelte, cioè, tutti hanno il cellulare di ultima generazione per fare un luogo comune, ma è veramente così. Tutte arrivano vestite con più soldi di quello che guadagnano. E allora uno dice, per forza poi... Sì, nel quotidiano. Diciamo che bisogna, uno si dice, fai quella scelta che secondo me è bellissima, anche se ne avessi le possibilità mi piacerebbe fare un mondo così, cioè non è che io stia contraccriticando quello, oltre al fatto che le mie non vogliono essere delle critiche, vogliono appunto aprire la discussione, penso perché è così evidente, no? Ho cercato proprio di essere un po' stronzo anche. E vabbè, comunque, credo che poi uno scelga, cioè uno decide. e se decidi di prendere quella strada, allora sai che devi fare dei sacrifici, sai che la strada è tortuosa, ma sai che ce la puoi fare, cioè scendi a compromessi. Uno dice, poi chiaramente, cavoli, comprare una casa è un bel impegno. Ho preso questo esempio perché all'interno del libro uno dei protagonisti, il suo sogno è comprarsi questa casa. E insomma, poi ci sono quei disastri. Non so. E poi allora ci parli anche degli amori di questo libro, perché ce ne sono, no? All'interno dei tuoi racconti. Visto c'è chi vuole così cambiare vita e farsi, seguire una vita più tradizionale, mettere la testa a posto. Ci racconti un po' questi amori che compaiono nel tuo racconto. Sì. I personaggi sono legati anche da questo tipo di dinamiche, che sono quelle amorose. Mi sono divertito a giocare un po' anche con quella che è certa bibliografia a riguardo, e quindi uno dei protagonisti cambia la sua visione del rapporto di coppia leggendo Roland Barthes, no? Dei frammenti di un discorso amoroso, famosissimo libro di questo semiologo, ripreso a più volte da Francesco Alberoni, grande un editorialista, ma collaboratore del Corriere della Sera, che ogni lunedì fa uscire un trafiletto nel quale ti racconta un po' come gestire il proprio rapporto. E poi vabbè, ognuno poi non esistono, ho letto l'altro giorno sul calendario. In biblioteca facciamo la raccolta, se lunedì ci vuoi. Anch'io lo faccio spesso, io ce li ho tutti. Per un periodo ce li avevo tutti. Vabbè, a proposito d'amore, ho letto l'altro giorno sul calendario della Raiffeisen, c'era, se ogni settimana c'è una frase, e c'era la frase che diceva che in amore non esistono delle ricette buone, esistono solo buoni ingredienti. E allora l'ho trovata bellissima, era di una nonna, non lo so, c'eravamo appunto lì a lavoro in cucina, stavo riempiendo cosa stavo facendo? Beh, stavo facendo qualcosa, tipo stavo smanettando con qualcosa. A un certo punto mi giro lei questa frase e ho detto, che bella. E questi personaggi cercano di migliorarsi. Non sono persone. Una cosa che accomuna tutti questi è sicuramente l'amore, l'amore per le cose che fanno, che siano le più assurde, tipo quello che prende la chitarra e gira il mondo, oppure quello che si guadagna da vivere vendendo sostanza stupefacente, oppure gli eterni fuori corso all'università, ci sono tantissimi di questi personaggi, no? Che poi ce ne sono tantissimi anche se giri. Viene in mente un paio quando ero all'università, giocavano col frisbee. Il libro è pieno di questi fenomeni, però cioè, di queste persone, cioè, non sono quello che giudica, cioè, anzi a me affascinano tutti i tipi di esistenza, non vorrei dare la miseria. Mi piace guardarle, studiare queste cose. Vabbè, e tutte queste persone attraverso l'amore cercano di riconciliarsi con se stessi. Allora, uno dei personaggi diventerà padre, però lui non lo sa, torna a casa, tutti si complimentano con lui, no? Fa il cavolo di complimento, non capisce come mai. È perché la sua fidanzata su Facebook aveva scritto che era incinta, lui non lo sapeva ancora. Però l'amore che lui prova per questa ragazza è l'amore che lo porta anche a tradire se stesso, che penso che sia l'amore più bello che ci sia, insomma. E poi l'amore per la sua famiglia, l'amore per la sua terra, cioè queste cose lo portano sempre a non stare mai fermo, nonostante poi non si muova mai dal divano perché è una persona piuttosto sedentaria, però alla fine è quello che viaggia più di tutti. Poi c'è l'amore assurdo, l'amore forzato, è l'amore di un ragazzo che finisce a un ragazzo suonatore, si chiama Gian. Arriva ad Innsbruck e con una amica hanno un brevissimo rapporto, una notte così, con le cose ubriache che succedono nelle case fuori sede di studenti. All'Erasmus. Queste cose, no? In un modo, cioè, fai la serata e boom, lui idealizza, evidentemente, essendo. Lui idealizza il fatto e crede che da qui nascerà una grandissima storia d'amore, cosa che lei non è affatto convinta, ma lui per una parte del libro si basa su una lettera, è tutta una lettera che lui scrive a questa ragazza di cui è follemente, cioè quantomeno crede di essere follemente innamorato. È ovvio che è un'assurdità, una cosa che non ha neanche a che fare con la post adolescenzialità, proprio a che fare con, perché poi vedo che succede a gente un po' di tutte le età, ma ti innamori o quanto. Anche non sei innamorato, ma ti autoconvinci di esserlo, E questo capita magari anche nelle storie più radicate, però in questo caso è lui che vorrebbe far nascere questa storia, per avere un senso, perché lui quando è insieme a questo questo capotreno pazzo che se lo porta con sé, a un certo punto proprio se lo porta via, cioè non riesce, questo tipo non riesce più a liberarsi, ha quasi paura di questo capotreno, lo porta a fare delle cose assurde, lui pensa, cavoli, non c'è senso in tutto quello che faccio, e il senso lo trovava in due, no? Nell'amore, nella famosa congiunzione. E quindi ci sono sicuramente questi vari tipi d'amore all'interno del libro. E poi c'è un altro degli amori che trapela, credo, è da un po' che non lo leggo, magari dopo vi leggo qualcosa, adesso, però un altro degli amori che quantomeno in stesura avevo notato e mi veniva proprio addosso, era un certo sapore anche autodistruttivo per la nostalgia. Allora ci sono questi personaggi che si ritrovano a pensare al loro passato, ogni cosa gli evoca il loro passato, ci sono dei passaggi interi in cui loro ascoltano delle canzoni e si ritrovano a rivivere il loro passato. Una magia che la letteratura può esorcizzare, può far diventare anche bella, può far diventare arte, può far diventare condivisione, perché quando poi questa cosa viene, appunto come vi raccontavo, questa cosa viene letta da più persone, ti ci ritrovi, no? Un po' come certi grandi film, cioè, questo è un libricino, però vuol dire, ci sono, credo che quando un'opera d'arte è riuscita bene, anche l'opera d'arte che riesce ad esorcizzare la nostalgia. Pensiamo, noi abbiamo in questo senso, in Italia abbiamo avuto un grande maestro in questo senso che è Federico Fellini. Nel periodo che stavo scrivendo questo libro, che poi lui di nostalgia mica si nutriva i suoi film, anzi lui sapeva vivere. Però, voglio dire, questo sicuramente quando rileggevo il libro per le bozze, che poi c'è una storia assurda dietro perché avevamo corretto le bozze, sono successe mille cose, avevamo corretto... Sono successe delle cose incredibili che possono capitare e che poi, vabbè, quando rileggevo le bozze vedevo che c'era anche questo mi aveva fatto piacere, cioè, e ha trapelato anche da alcune pareri che ho ricevuto dall'esterno. Ci leggi qualcosa? Volentieri, solitamente io preferisco leggere altro, per le altre cose, perché poi, per quanto riguarda la figura di Alexander Langer, mi sono portato appresso questo libro, lo faccio sempre, perché è scritto da un docente di storia dell'Università di Torino, Fabio Levi. E questo significa tanto, perché non è, insomma, quando si parla di Alexander Langer qua, comunque stiamo da una parte, un po' dall'altra, ne scrivi così, nel bene e nel male è difficile comunque avere una visione asettica, anche per la vita drammatica. Non ha avuto una vita drammatica, ha avuto una vita molto vitale, nonostante come sia finita, ha avuto una vita fortissima, per quello che ne so io, ribadisco, non sono uno storiografo, sono un ragazzo con la passione per queste cose, però quando tu pensi alla figura di quest'uomo, cavoli, molto spesso è fuorviata, ma anche nel bene, cioè del tipo leggi certi bellissimi editoriali che ti riportano, ti dicono vai Alexander Langer, ok, ma chi è questo Alexander Langer, come te lo dicono, cioè danno un po' troppo per scontato che si sappiano le cose. Questa invece è, questa è la mia visione da persona anche ignorantella, anzi ignorante lo possiamo dire, in questo caso Fabio Levi, sogno non sapere. Fabio Levi ha fatto un lavoro certosino, perché ti porta a ripercorrere quello che è il suo pensiero e la sua vita in maniera chiara, evidente, da storico, senza fazionismo. Quindi questo lo consiglio. E poi vi leggo l'inizio. L'inizio del libro parte con un intro come i dischi, essendo che ho comunque un passato da musicista, poi amo molto la musica, principalmente rock and roll, anzi stasera c'è John Di Leo al Carambolage, uno dei più grandi cantanti che abbiamo avuto in Italia, però è già tutto sold out e si entra dal retro, si minaccia, però ve lo dico perché sappiate che in città vengono molto spesso degli artisti veramente straordinari. Che è più vivace di quello che non sembra, insomma, la città di Bolzano, sì, alla fine. Credo proprio di sì, cioè questo lo ribadisco sempre, Anzi, è difficile seguire poi quella che è la... È evidente che non siamo una capitale, è evidente che siamo 100.000 abitanti, è evidente che ci sono delle restrizioni anche abbastanza pacchiane, è evidente che, insomma, ci sono un sacco di cose, però, insomma, facciamo un attimo mea culpa, cerchiamo di... anche di capire che molto spesso l'offerta supera la domanda, e lo dico con cognizione di causa perché poi girando molte iniziative, molti eventi per questa mia collaborazione con il quotidiano mi ritrovo molto spesso appunto, adesso faccio un esempio, nome su tutti, era venuto un grandissimo cantautore, si chiama Marco Parente, che non dice molto di più perché non è di richiamo, non va in radio così, però ha collaborato con Carmen Consoli, che è una che già più si sente, è stato il batterista del consorzio Suonatori Indipendenti, che sono stati un collettivo creativo che ha cambiato la discografia italiana per un lasso di tempo. Dalla loro influenza sono uscite tantissime cose, non c'è regista che non metta cavoli insomma, hanno avuto una grossa influenza, un grosso calibro. È venuto a Bolzano e c'erano tre persone. E capita spesso questo. Come dall'altra, però, ben venga tutto il grande entusiasmo, tutto il grande sbattimento, l'impegno che ci mettono tante persone a portare sempre delle cose di livello. Penso a voglio fare esempi chiari, pensiamo a Transart, meraviglioso. O pensiamo a tutte le cose, per ora, cioè tutte le edizioni di Transat, non ce n'è una secondo me che almeno qualcosa non abbia segnato. Ma anche come rivalutazione architettonica, pensiamo all'ex Alumix. Allora, già il fatto di pensare, riprendiamo dei posti che non sono utilizzati e rivalutiamoli con l'arte. Cioè, io credo che la città di Bolzano in questo senso abbia non solo delle grandi risorse, ma anche delle grandi persone. Penso, parlo sempre per cose che conosco, per evitare di dire monade. Tipo, pensiamo al Teatro Stabile di Bolzano, che comunque come longevità, secondo solo al Piccolo di Milano, e come produzioni è comunque ritenuto con lo Stabile di Genova il secondo. Ha lanciato Fausto Paravidino. Sì. L'altro giorno stavo guardando Sanremo perché c'era un ragazzo di Trento molto bravo, Anansi, che partecipava nelle... che ha fatto uscire il disco, fra l'altro molto bello adesso, il secondo disco. E, c'era questo ragazzo, mi stavo guardando Sanremo, che fra l'altro a me piace, queste cose nazionali popolari, le adoro. Allora, lì che mi guardavo Sanremo, gasatissimo, a un certo punto cambio sul 7, la 7, la mia televisione, il 7, proprio la 7, accendo, guardo Fausto Paravidino, questo grandissimo attore, regista e sceneggiatore, ormai non troppo, però insomma neanche vecchio, che lavorava a questa fiction fantastica. Chi l'ha lanciata alla fine? Marco Bernardi, che è il direttore artistico del Teatro Stabile di Bolzano. E anche il Teatro Stabile lavora bene, insomma, abbiamo un contesto buono, secondo me. Cioè, lo so, dite la vostra, secondo me sì. Sta cercando anche di leggere e di raccontare il territorio, no? Vedo che stanno facendo anche uno sforzo in quella direzione. E come? Che è importante. E come? Per diventare consapevoli, per conoscerlo meglio anche. Sì. E superare magari certe difficoltà, insomma. Una scrittrice, tra l'altro, è stata che ha vissuto a Brunico per un po' di tempo, ha fatto uscire questo nuovo libro che si intitola Eva dorme. Non mi ricordo come si chiami, sfugge. La Melandri. Francesca Melandri, che si chiama come il motociclista. La ministra. È oppure mettiamo di tutti lì. Vabbè, ha scritto questo libro ambientato in Alto Adige e esortava la popolazione, gli scrittori, e raccontate questo posto, raccontatelo, perché poi non si conosce. E addirittura magari non lo si conosce neanche chi ci vive. È per quello che mi appassionano tutte queste, è per quello che ho ripreso anche Norbert Kasser, a parte che mi affascinava la figura di quest'uomo che ha soli 31 anni, muore in circostanze tragicissime e ha scritto queste poesie meravigliose, di cui alcune riporto anche all'interno del libro per intero, su traduzione di Giancarlo Mariani, che è un gagliardo. Sì, lo conosciamo, è venuto anche qua da noi ogni tanto. È così. Allora poi si parte, ho letto il tuo diario, che questa ultima pubblicazione è uscita a novembre, che parte così. Non avevo una Heimat né un dialetto qui. Al Brennero le stalattiti di ghiaccio cadevano sui marciapiedi della stazione ferroviaria. La zona ristoro del binario 6 era illuminata al neon. I viaggiatori scendevano dal treno per un caffè alla macchinetta automatica, poi risalivano. Intorno, la neve. Le insegne del centro commerciale. I cartelli di confine. Austria, Italia, Südtirol e Schlicht Italien. La carrozza del treno per Verona si mosse. Ero seduto su un sedile di Alcantara. Guardavo fuori cercando di non pensare alla tua stanza, al tuo odore, alla tua scrivania, al copripiumino Ikea a pallini rossi e arancioni. Il controllore entrò munito di palmare e borsellino a tracolla. Quando arrivò il mio turno stavo abbracciando lo zaino. «Buonasera, biglietto, prego». «Non ho nessun biglietto, signore». La neve si sciolse. «Tu, Lolly, stavi riordinando la cucina dell'appartamento di Herzog Eugenstrasse, maledicendo le coinquiline. Il caffè si rovesciò nel lavello pieno e solo allora decidesti di vestirti e raggiungermi col treno successivo. Facesti il giroscale di corsa, uscisti dal portone in legno e attraversasti il viale seguendo i binari del tram. I capelli sciolti profumavano di camomilla. Vedevi i tuoi occhi verdi sotto le lenti degli occhiali. Erano riflessi sul finestrino del treno appena partito. Ad Innsbruck, in febbraio, c'erano 22 gradi, al Brennero 25. Gli Schützen della Val di Sarco cominciarono a sparare. Mi sarebbe piaciuto avere una stanza in più al bilocale. Mi sarebbe piaciuto avere un lavoro normale, una ragazza normale e una famiglia normale. Avrei voluto comprarti un guardaroba nuovo. Ma io suonavo la chitarra nei locali, quando andava bene negli hotel. Se avessi finito il conservatorio, forse sarei stato professore. Se non mi fossi innamorato di Fabrizio De André, forse non avrei bevuto tutto quel vino. Tu, Lolly, decidesti di lavare i piatti maledicendo le coinquiline e preparasti la colazione per il giorno successivo. Ad Innsbruck, in febbraio, c'erano meno 2 gradi, al Brennero meno 5. I tuoi occhi verdi sotto le lenti degli occhiali si dissolsero su un cartellone del Cinzano. Venga con me. Mi alzai, presi le mie poche cose e seguii il controllore. Arrivammo all'ultimo convoglio. Aprì la porta dello scompartimento del personale. Appoggiai lo zaino e la chitarra sul sedile vuoto. Si accomodi. Controllò la sua agenda, si accese una sigaretta. Pensavo che fumare sul treno fosse illegale, glielo dissi. Qui comando io. Era il capotreno. Si torse il berretto paramilitare e liberò dei riccioli non curati. Lo guardai meglio. Sembrava un sindacalista con quella barba incolta. Sul borsellino aveva appiccicato un adesivo di Rifondazione. Io, che di politica proprio non me ne intendevo, pensavo che Rifondazione Comunista non esistesse neanche più. Mi offrì una paglia arrollata di Old Holborn, che accettai. «Mi racconti una storia post-rave party, signore». E la storia post-rave party, la storia di questi anni veloci, cominciò. E da qui parte tutto il libro e quello che accade dopo. C'è poi un altro capitolo che invece è ambientato a Berlino e altri in cui la storia evidentemente va avanti, ne stavo cercando alcuni magari rappresentativi per i vari personaggi. Ah, questo in base all'amore, prima si parlava di amore. Mm-hmm. E questo è un capitolo che si intitola, ogni capitoletto è stato titolato. Mm-hmm. L'ho fatto breve innanzitutto perché mi veniva più comodo la stesura. Mm-hmm. E poi anche perché alla lettura è evidentemente più comodo, anche perché magari uno legge il libro in autobus così, invece che dover leggere il tomazzo ogni volta ha una parte che era sempre abbastanza delineata, volendo, non sono propriamente racconti, ma volendo uno può prendere anche una parte. Questo a parlare è un monologo che dura buona parte del libro, a parlare è uno dei personaggi che si chiama il generale, è quello che spaccia, che ha la fidanzata che rimane incinta, lui non ne sa niente, è sul suo divano davanti alla televisione che sta cercando di fare mente locale sulla sua vita. E allora alla fine c'è un piccolo inframmezzo che parla d'amore. Esco in balcone a controllare che le piante stiano bene. L'acqua piovana le ha rese forti, adatte a sostenere l'inverno. Mi dirigo verso la mia preferita, le accarezzo le foglie, elimino alcune piccole ragnatele di un ragno che non ho mai visto. Controllo l'armadietto della raccolta differenziata, promettendomi di svuotarlo entro martedì. Poi osservo la campagna addormentata, le luci nella casa del dirimpettaio che non riesce mai a pagare le rate. Mi siedo sulla panchetta di legno. Siamo destinati a correggerci in continuazione. Siamo destinati a curarci a vicenda e ad imparare ad esserci grati, ognuno a modo suo. Tollereremo le mancanze reciproche perché avremo paura di perderci. Questa è la mia unica forma di dipendenza. La Fra è ad Innsbruck dalla Lolli e io sono qui, in via San Giacomo 701, terzo piano, interno 14. Potrei raccontarti di quando ci siamo conosciuti, della timidezza che non mi permetteva di essere me stesso. A 16 anni imparai a gestire il lavoro, il denaro, il sesso, le bugie, ma non le emozioni. Potrei raccontarti che era primavera e lei mi invitò sul Talver a prendere il sole. Potrei, ma quella volta scoprì che non le interessavo io, bensì il fumo. Il mio mestiere implica anche questo. Entri in un vortice dove, per non finire inghiottito, devi saper distinguere gli amici veri da chi ti sfrutta e basta. Non mi importava sapere da che parte stesse la Fra, perché quel pomeriggio me ne innamorai. Questa è la mia unica forma di debolezza. Tornammo altre volte sul Talvera, anziché andare a scuola. Si ascoltavano dischi di gruppi locali. C'era una canzone dei Bound, si chiamava Tracce. Il giro di basso sparato dalle casse portatili che piazzavamo sul play mi ronza in testa tuttora. Ricordo che un verso di quel brano diceva: è facile segnare i propri passi nel terreno, ma il mio compito è scolpirli nella roccia del destino. Quella frase lì l'ha presa in parola, con l'ingenuità irripetibile dei 16 anni. Cominciamo ad andare a vedere i concerti. Una volta finimmo anche nella loro sala prove, una baracca in aperta campagna. Così diventammo seguaci della scena hardcore, musica diretta e velocissima che aveva segnato la storia dell'underground e non solo nostrano. I cantanti erano i nostri poeti e il cassa rullante scandiva le giornate. Fu un periodo bellissimo. Se sono qui a parlarti, Rosa, è perché so che sai ascoltare. Dimmi se non è giusto cercare di amare una persona anche più di se stessi. Dimmi se non è giusto cercare di intraprendere, per una volta, una strada dritta e riconosciuta legalmente. Ho timore che un giorno uscirò un balcone e tu sarai appassita. La Fra potrebbe conoscere qualcuno che le assicurerà un futuro migliore. I miei genitori potrebbero non esserci più all'altro capo del filo. E queste sono le mie uniche paure. E questo, diciamo, che è l'amore che provano i personaggi. Invece, per andare per una cosa più tranquilla, vanno da uno che si diverte a roba. Proprio uno che i personaggi, a un certo punto, nell'iter della storia, alcuni dei personaggi, il capotreno ha sequestrato questo ragazzo e insieme su due cavalli gialla vanno a trovare uno zio, lo zio di cui si parlava prima, insieme a loro due giullari di rosso vestiti che si ritrovano materializzati nell'automobile di questo capotreno. Stanno scappando, non sanno dove andare, hanno appena incendiato l'area del ferroviario di Bolzano, sanno di essere pieni di droga, insomma è una situazione non invidiabile, però a loro trovano la soluzione: andiamo a trovare lo zio perché lui è uno che realizza desideri e sicuramente ci salverà. Il capitolo, che è il 27esimo, infatti si intitola Al palazzo. Arrivano al palazzo, ma dove lavora tuo zio? Non è mio zio, è nostro zio. Ma perché, siete parenti voi due? Riferendosi ai due giullari. No. E di che zio allora? Beh, di tutti. La due cavalli ronzinava alla rotonda della stazione. I primi pendolari arrivavano in città assonnati e automatizzati. La settimana lavorativa chiamava nel capoluogo le anime da mezzo pubblico sovraffollato, offriva impieghi terziarizzati e pause pranzo dignitose. I più fortunati si dirigevano al bar dell'angolo per addentare una brioche calda. Gli altri si sparpagliavano per le vie della città. Siamo un po' in anticipo. Per cosa? Per il ricevimento. Lo zio apre le porte alle 6 di mattina. Speriamo di non trovare troppa fila. Il capotreno continuava a trangugiare da una giara ormai vuota. Ma offre da bere sto zio? È uno che realizza desideri. Allora, veniamo anche noi. Il piano d'azione congeniale alla necessità di tutti potrebbe essere il seguente, nuovi amici. Nelle tenebre del garage eludiamo la videosorveglianza. Indio e Spazzola ci occupiamo della sostanza stupefacente, liberandovi del pesante fardello, e poi andiamo a salutare lo zio. 100 colpi fu convincente. Spazzola era sempre più infastidito dal piglio propositivo del compagno, ma sentì. Eravamo arrivati al piano sotterraneo del garage. I due giullari scesero dall'abitacolo silenziosi. Nel buio si diressero sistematicamente verso tutte le colonne portanti. Vedevo le loro sagome smanettare in una pratica che appariva coordinata e collaudata. Parcheggio da due cavalli, capotreno. Ora siamo al sicuro, come promesso. Appena spento il motore, 100 colpi e Spazzola entrarono in sincrono dalle portiere e ne uscirono in pochi minuti con delle borse da viaggio e due zaini da montagna stracarichi. Dallo zio adesso. Raggiungemmo la piazzetta incassata fra i palazzoni provinciali. Seguivamo lobotomizzati due giullari che si infilarono in un portone. Ci ritrovammo in un'anticamera. Insieme a noi, un signore di mezza età con indosso un grembiule blu da contadino. Sulle ginocchia aveva una gabbietta in cui sonnecchiava un coniglio. Dalla porta dello zio usciva un ragazzo sui 30 anni, 35, con gli occhiali, l'orecchino al lobo sinistro e le basette alla Del Piero che adesso si è tagliato. Era il turno del signore di mezza età. Si potevano udire chiacchiere in dialetto autoctono e grandi risate. Dopo 5 minuti ricomparve il coltivatore, che ci fece un gesto di saluto con la mano e se ne andò. Tocca a noi. Varcammo l'uscio. La porta alle nostre spalle era coperta di pelle nera. Lo zio teneva in mano il coniglietto e lo accarezzava fra le orecchie. Buongiorno, cosa posso fare per voi? Ciao zio, ti sei dimenticato di noi? Io sono quello che ha fatto esplodere la prima carica di dinamite per la galleria, mentre lui, conosciuto come 100 colpi, ti metteva in testa il caschetto per le foto di rito. Ah certo, grande giornata quella. Bene, di cosa avete bisogno? Spazzola si lanciò per primo. Un museo di arte contemporanea. Ce l'abbiamo. Una rete di centri di aggregazione giovanile sparsi su tutto il territorio provinciale. Ce li abbiamo. Allora, io sono a posto. Tu che vuoi, 100 colpi? Il giullare si rimboccò le mani. Le maniche. Un festival di artisti di strada. Ce l'abbiamo. Il mercatino delle pulci, sono giullari, sono un po'. Ce l'abbiamo. L'università trilingue. Ce l'abbiamo. Un patrimonio dell'UNESCO. Questione di giorni e ce l'abbiamo. Era ambientato quando ancora le dinamiti non erano. Allora io sono a posto. E tu cosa vuoi, capotreno? Il riccioluto prese la parola. Lei, che dall'accento pare essere sudtirolese della zona di Falzes, conoscerà sicuramente Alexander Langer. Di vista. Bene, allora le racconterò una storia. Racconti, racconti. Si riprese il berretto dalla testa di 100 colpi, lo indossò e cominciò. Nell'agosto 1978 muore il giovane poeta sudtirolese Norbert Kaser, i cui i primi versi sono stati pubblicati su Die Brücke. Al funerale di questo dissidente particolarmente significativo ci ritroviamo in tanti al cimitero di Brunico. Gente che da 10 anni, che 10 anni prima era insieme e che ora si trova a lavorare nel sindacato, nei partiti di opposizione, nella scuola e parecchi cani sciolti. Il silenzio di quel funerale e la dispersione e l'impotenza di tante persone che ai miei occhi rappresentano il meglio di questa terra mi fa impressione. Norbert Kaser è morto di questa impotenza. È lì che penso di dovermi rioccupare più da vicino delle cose sudtirolesi. Pochi giorni dopo pubblico sul Südtiroler Volkszeitung una proposta. Riunire il dissenso sudtirolese attraversando i gruppi linguistici e i residui dei gruppi politici organizzati ed affrontare il gigante del regime sudtirolese con la fionda di David, senza dogmatismo e senza settarismo. Seguì un istante di silenzio. Beh, bella storia. E cosa vuole in cambio? Disse lo zio, continuando ad accarezzare il coniglietto. La scuola bilingue? Ci stanno lavorando. Quando fu il mio turno, chiesi un bicchiere d'acqua. Beh, questa è una delle parti finali del libro. Beh, direi che lo stile è molto dinamico e anche gustoso, e Andrea riesce a dare uno spaccato anche della nostra realtà in maniera ironica, ma non per questo meno profondo e meno anche, direi, scolpito negli eccessi e anche in alcuni difetti della nostra realtà, insomma. Cioè, questa ironia gentile che però è abbastanza incisiva. Chiaramente è caricaturale. Sì. Sono abituato a caricaturizzarmi anche nella vita, figurati quando scrivo. Poi, fra l'altro, il libro nasce anche da tanti quelli che sono riferimenti anche fumettistici, non solo letterari, quindi la copertina stessa è stata disegnata da una fumettista, dalla bravissima Silvia Boscolo, di Pineta. I due giullari arrivano a piene mani, sono stati presi a piene mani dall'immaginario di Andrea Pazienza, che è stato un grandissimo disegnatore italiano, fra l'altro rimandi. Fra l'altro disegnò anche la locandina pubblicitaria per La città delle donne, che è stato un film del 1980 di Federico Fellini con Marcello Mastroianni. E poi vabbè, lui era un grandissimo disegnatore, era un grandissimo narratore. Raccontavo prima a Valeria che ho avuto fortuna di parlare di recente con Gianni Celati, che era Gianni Celati è un grandissimo scrittore italiano, non solo scrittore ma anche insegnante, adesso è in esilio volontario in Inghilterra e non vede molto di buon occhio la nostra situazione nazionale. Però quando ne parlai con lui si ricordava con grande affetto di questo ragazzo, di Andrea Pazienza, di cui lui era insegnante al DAMS di Bologna nel 1977, e ne parlava con grande affetto come una persona che aveva comunque scritto, testimoniato delle pagine importanti della storia. Quindi questo sicuramente anche nel libro è importante, ma penso è un libro che non si prende per niente sul serio, anzi, che prende a piene mani sia da quella che è ritenuta la letteratura colta come quella che invece l'ho ritenuta un po' meno, anche se adesso sempre di più, soprattutto sull'onda di quello che arriva dalla Francia, certe cose come i fumetti stanno acquisendo valore. Diciamo che questo è un libro che, appunto, essendo scritto in breve tempo e essendo che comunque parla di personaggi, fa convivere tutte queste anime. E poi una cosa che mi divertiva era il fatto che ci sono tantissime note a piedi pagina, la maggior parte sono riprese da Wikipedia e questo perché, lo dico sempre, è la fonte meno attendibile che ci possa essere, perché alla fine è quella che ti guarda, poi è una fonte democratica di conoscenza e quindi è bene che ci sia. Volevo chiederti le tue citazioni di Alexander Langer e di Kaser. Allora, come mai un ragazzo così giovane come te? Norbert Kaser l'ho conosciuto abbastanza casualmente perché ero in una nota osteria a Bolzanina, ero da Picchio, e avrò avuto 17 anni. Il San Quirino. Avevo ancora una vecchia gestione, adesso è anche più bella, si mangia anche bene. Ma ai tempi era veramente una situazione. Ero lì, era tipo un giovedì, probabilmente non dovevo essere lì, cioè dovevo essere tipo a scuola. Così. A un certo punto mi entra. Non indaghiamo. A un certo punto entra questo personaggio, ma sarà Bonari. Cioè, aveva voglia di parlare, quantomeno, no? Con questo cappello in testa. No? E c'erano tutti i tavoli vuoti perché c'ero io, basta. A un certo punto questo tipo si siede davanti a me, aveva voglia di parlare, ho detto no, oddio, basta, no? L'ubriacone delle 10 si fa avanti a bianchi, mi tirava, volevo scappare. Quest'uomo non è un ubriacone, cioè quel senso, quello era la mia immaginario, cioè ero seduto lì al bar, uno si siede, questo cappello se lo toglie, lo vedi un po' così, ordina un bianco, così, e dici che sono guai. Però questa non è una persona che ha queste cose, no? Anzi è una persona di somma cultura, grandissima cultura, ha due lauree, professore, ha scritto tantissimi libri, fra i quali quel giorno scoprì una traduzione di Norbert Kaser di Edizioni Nuovo Studio, che si può trovare alla Civica di Bolzano, e ai tempi era l'unica che potevi trovare in giro, non ce n'erano altre. Edizioni Nuovo Studio, intitolata semplicemente Norbert Kasser, a cura di... A cura di Giancarlo Mariani. E allora da lì io mi sono avvicinato alla figura di questo le parole che abbiamo letto prima sul funerale di Norbert Kasser era una citazione presa a piene mani da Alexander Lang. Quella citazione la potete trovare in Il viaggiatore leggero, edito da Celeria Edizioni, che è un libro curato e editato da Adriano Sofri, in quanto, come si sa, insomma, non solo erano buoni conoscenti, ma Alexander Lang è stato anche direttore del giornale Lotta Continua per un periodo, e quindi insomma si conoscevano e come. Adriano Sofri, da dietro le sbarre, ha curato questa pubblicazione, dalla quale io ho estrapolato, casualmente, perché poi la storia è nata da sé, casualmente stavo leggendo quelle cose e casualmente c'era questo frammento di testimonianza di Langer che parlava proprio del funerale di Kasser, che invece era già entrato all'interno del libro, perché ogni volta che leggo alcune delle sue poesie, di quelle che ho, evidentemente non le ho tutte, quantomeno mi strappo un sorriso. E qua vi leggo la traduzione, perché per me è imbarazzante leggervi l'originale in tedesco perché sono pessimo. Vi leggo la traduzione di Giancarlo Mariani di una poesia che si intitola, fra l'altro non è propriamente, forse è proprio l'ultima, no, l'ultima sua mi sa che è un'altra, so che comunque insomma è piuttosto significativa. Qua poi all'interno ho inserito anche l'ultima, a un certo punto anche l'ultima poesia scritta, perché essendo che è morto giovane, essendo che in vita non ha avuto un grosso credito, ho saputo che ha fatto per un certo periodo anche lui collaboratore con l'Alto Adige nella pagina tedesca. Ho saputo che Josef Zoder lo invitò a Vienna a fare una lettura, lui era felicissimo perché per la prima volta ha avuto una lettura, però insomma non ha avuto una vita propriamente felice, né sua né per i suoi scritti. Però questa poesia a me, quando la lessi, rimasi folgorato, mi fece tanto ridere nella sua drammaticità. Appunto, Canto della povertà di idee, traduzione di Giancarlo Mariani, 1983 la traduzione. Terra amata, fatta di campanacci e risse da bettola, figlia del tempo, madre dell'uva, soffiare di venti e rossori alpestri, verdi fiumi al lato, gli ai piedi, un verme schiacciato, intime viuzze, civico senno e fiera forza agreste, nemica del terrone e peggiore di lui, figlia del tempo, madre dell'uva, intimi paesi, grembiule blu e tori, autonoma, pagani in veste da Schützen, pompieri, musica, salte, cetre, ma nessuno sa gorgheggiare, consacrata al cuore del Dio, e su tutto si libera la Poiana. Quando ho letto questa ho detto, questo era bravo. Allora mi sono innamorato di questo poeta e ho cominciato a approfondire le mie conoscenze. C'è fra l'altro un bellissimo articolo che trovate anche in rete di Bruna Maria Dal Lago Veneri del Corriere della Sera, sul Corriere della Sera, Corriere della Sera, però lo trovate nell'archivio del Corriere della Sera, lo trovate lì, se digitate Norbert Kasser, uno dei link che vi esce sul motore di ricerca, digitate Norbert Kasser, uno dei link vi esce questo meraviglioso articolo dove in breve ti racconta un po' la vita di questo grandissimo dissidente su tirolese. Dissidente piuttosto significativo, e quindi arrivano da lì. E poi, essendo stato scritto nell'anno feriano, è stato un po' casuale all'inizio, però mi ha fatto, ognuno, ribadisco, non sono un polemista, mi affascinano tutte le conoscenze, anche perché avendone poche mi piace sempre approfondire. Però in quell'anno lì, dove magari certi sfarzi potevano essere un attimo contenuti, mi faceva pensare a una figura come quella di Kasser, che grazie anche a manifesto di alcuni artisti come Benno Sim, che ha rifatto nella fortezza di Fortezza, una fortezza che non è mai stata fortezza, questo lo potete sapere la storia approfonditamente nel libro di Wallisch che vi dicevo prima. Senza mettere troppa carne al fuoco, adesso magari chiuderei, ma perché, per farvi capire che ci sono tantissimi rimandi che sono importanti, e pensai, ognuno è eroe a modo suo, ma c'è modo e modo di celebrare un eroe. Sicuramente Norbert Kasser non è un eroe, però dal mio piccolo punto di vista sì, è morto di un'impotenza diffusa, e questa cosa mi ha postato il cuore. Io ho pensato una pacca, come ho dato una pacca, vabbè, no, qui mi devo fermare, vabbè, comunque mi sto compromettendo, però non sto compromettendo, ma vabbè, è così. Quindi cioè, questa cosa mi ha spinto a dire sì, questa è una persona che, anche perché sennò poi un libro che senso ha, cioè alla fine cos'è, una anche per dare un senso al libro, io ci tenevo a cercare di inserirci degli spunti. Sì, sì. Ce ne sono? Ce ne ha dati tantissimi. No, quello ci tenevo. Quello, approfondiremo. Questo ci tenevo e credevo che lo ritenevo di importanza, perché altrimenti chi te lo fa fare di stare, a parte che appunto volare, avevo la gamba rotta, però chi te lo fa fare di stare a casa a scrivere il libro quando puoi uscire e andare in montagna? E allora quantomeno rendilo piacere, polivalente. Bravo Andrea. Grazie a te, grazie di tutti i tuoi vacillari, dei tuoi spunti, grazie mille. Grazie ai vostri.